Alleluia, buongiorno a tutti voi, davvero un onore, un privilegio essere qua, soprattutto un piacere, fatevi un applauso ancora, facciamoci un applauso perché siamo qua insieme. Passato un po' di tempo dall'ultima volta, sono successe un po' di cose abbastanza imprevedibili, però ormai siamo pronti a tutto, ci ha forgiato a qualunque cosa. Anch'io voglio salutare tutte le chiese che sono connesse, soprattutto la nostra chiesa che da un po' che non ci vediamo, permettete una parentesi familiare. Comunque ci vedremo tra poco, tra una settimana, chiesa, saremo ancora in presenza. I vostri pastori esistono, non siamo un ologramma, però ci siamo e siamo molto felici di essere qua. Il messaggio di questa mattina è un messaggio che amo in maniera particolare e che prego, desidero proprio trasmettervi con tutto il mio cuore. È importante per me, è importante per tutti noi, lo riascolterò, mi riascolterò a predicarlo, continuo a rimeditarlo e cercare con tutta la mia forza di metterlo in pratica nella mia vita, perché è un messaggio che va in profondità, che parla della nostra quotidianità e che ci può davvero trasformare. Il titolo è «Padri, benedite i vostri figli». Padri, benedite i vostri figli. Quindi tutte le madri adesso si stanno scollegando. Ma in realtà padri perché è una parola che indica autorità, quindi sicuramente un messaggio specifico per chi è padre, ma padre è anche qualunque tipo di autorità. Dio ha sempre inteso l'autorità in un senso anche paterno. Quindi riguarda anche le madri, riguarda chiunque svolge una funzione di autorità, di chiunque ha una squadra, chiunque ha un gruppo di lavoro, chiunque ha un'influenza su qualcun altro, questo messaggio riguarda anche te. Ed è un messaggio fondamentale che fin da Genesi ci viene trasmesso. Padri, benedite i vostri figli. Prima di tutto, cosa vuol dire benedizione? Benedizione significa letteralmente dire bene, avere una buona dizione, quindi andiamo tutti a lezione di dizione, dando in giro per l'Italia, ognuno ha il proprio accento, il proprio, anche nei summer camp è fantastico sentire diversi accenti, ma in realtà benedire significa proprio parlare bene, parlare, dire, esprimere il bene, il bello dell'altro, avere la capacità di cogliere e di saper vedere al di là di quello che i nostri occhi naturali vedono. Dio ha benedetto Adamo ed Eva fin dall'inizio. In Genesi capitolo 1, versetto 28, viene detto che Genesi 1, versetto 28, Dio li benedisse e Dio disse loro. Una benedizione che non viene espressa è un controsenso, è un non senso. Benedire significa parlare. Padri, abbiamo bisogno assolutamente di imparare a parlare. E chiunque è in autorità, chiunque è in questa posizione, deve imparare a parlare, a esprimere qualcosa. Vedete, Dio come padre ha creato Eden, ha creato un luogo meraviglioso per accogliere Adamo ed Eva. E tutti noi come genitori, secondo le nostre possibilità, quando è nata la nostra prima figlia, Alice, abbiamo preparato la camera da letto, insomma, confronto a Eden non era molto, però, insomma, base alle nostre possibilità, abbiamo fatto quello che potevamo. Poi è arrivata Federica e abbiamo detto, vabbè, ci stai anche tu. Poi è arrivato Davide, letto a Castello. Però, diciamo, in generale Dio ha creato Eden, un luogo meraviglioso perché voleva proprio trasmettere anche attraverso la sua creazione la bellezza e l'importanza, la nobiltà di coloro che lui stava creando, Adamo ed Eva. Però non si è fermato lì, non ha detto, vabbè, oh, il mio amore lo capite da quello che vi ho creato intorno. Come molte volte noi come genitori diciamo, insomma, tutto quello che faccio per te dovresti capire che ti voglio bene. No, Dio ha espresso il suo amore con delle parole. E Dio ha detto, Genesi 1, 28, Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Perché le parole sono importanti? Soprattutto le parole di un padre. Perché le parole di un padre non solo descrivono, tu non devi descrivere basta la situazione, Le parole di Dio, la parola di Dio, viene usata questa parola un po' particolare, è performativa, cioè cosa vuol dire? È creativa, è un altro modo per dire che dà forma alle cose, dà forma ad Adamo ed Eva. Quando Dio gli ha detto siate fecondi e moltiplicatevi, non stava solo descrivendo qualcosa, stava formando. Quando noi parliamo attraverso le nostre parole, soprattutto le parole di un padre, noi non stiamo solo descrivendo i nostri figli, non sei chiamato a descrivere le situazioni, giudicandole e inscatolandole, sei chiamato a creare, a formare, a dare quella parola che va al di là, ve lo ripeto, di quello che nel naturale vediamo, ma non è un dire qualcosa che è di falso, è avere quella parola, potremmo dire profetica, quella parola che è in grado di tirar fuori quello che ancora non si vede, ma c'è. La fede chiama all'esistenza le cose che non si vedono, non le cose che non esistono. Un buon leader è quello che è in grado di tirar fuori quello che ancora non si vede, ma c'è, io lo vedo, come padre io lo vedo, sono chiamato a vederlo, perché sono nato prima di te, diceva sempre mia madre, ma lo diceva sempre in un altro senso. Ma proprio perché abbiamo questa esperienza, questa capacità di dire quello che stai vivendo è solo per un tempo, è quello che c'è molto di più, c'è molto di più, e Dio lo ha visto. Giovanni 1, versetto 3 dice: tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Cioè, e attraverso le nostre parole, come genitori, soprattutto come padre, soprattutto come autorità, che esprimi qualcosa, e tutto quello che è stato fatto per mezzo della parola. È già lì, è nel seme c'è tutto, però c'è bisogno di questa parola, che è una parola coraggiosa, è una parola forte, è una parola che scuote, è una parola benedetta, è una... Padri, benedite i vostri figli, sempre. Benedite i vostri figli. C'è un salmo straordinario, Salmo 28, versetto 1, dice: a te grido, o Eterno, mia rocca, non stare in silenzio, perché se tu non parli io sono simile a uno di quelli che scende nella fossa. A te io grido, mio Dio, se tu non mi parli io muoio. C'è un grido da parte delle generazioni più giovani. È un grido a volte silenzioso, a volte detto, gridato male, però c'è un grido ed è quello di parlami, dimmi qualcosa, perché se tu non parli, se non c'è questa parola, io va bene, ci sono, esisto, cresco, potrò fare tante cose nella vita, però dentro io sto morendo. Perché i nostri figli non mangiano solo quello che metti a tavola, e i miei figli mangiano tutto quello che metti a tavola, però no, e siamo contenti per questo, ma noi ci cibiamo di cibo e di parole. Qualcuno dice, qualunque altro essere vivente, tu che gli metti il cibo per terra in una ciotola, gli animali mangiano e punto, non gli interessa nient'altro. Ma noi esseri umani ci sediamo a tavola, e mentre mangiamo parliamo, non con la bocca piena, però parliamo e ci cibiamo anche di quello che papà e mamma dicono, e noi genitori anche di quello che i nostri figli dicono, perché noi ci cibiamo di pane e parola. E se Dio non parlasse, noi moriremmo. Noi siamo qui per ascoltare la parola di Dio, e la parola di Dio che ci parla. Perché molti padri non parlano ai figli o parlano molto poco? Io, per esempio, nella mia famiglia, mio papà adesso è con il Signore, ma lui era cresciuto con una cultura per cui non parlare, c'era il famoso silenzio assenso. Poi anche la burocrazia l'ha presa questa, ma mio padre era già avanti. Finché non ti dico niente va bene, finché non ti dico niente stai andando bene. Ma se ti parlo, È perché c'è qualcosa che non va. E quindi cresci con questa idea che papà parla quando c'è qualcosa che non va. E siccome l'idea che hai del padre riflette quella che è del Signore, perché alla fin fine la famiglia è il primo luogo di rivelazione che hai di quello che è un'autorità, e l'autorità più alta è Dio, quindi cresci con l'idea che Dio ti parlerà solo quando c'è qualcosa che non va. È come quando in chiesa, anche a me come pastore succede, che se chiamo qualcuno e dico senti avrei bisogno di parlarti, sta male, devi dirgli guarda non c'è niente, non è successo niente, devo solo dirti una cosa, è così, mi fa piacere bere un caffè con te. Ma perché molti di noi siamo cresciuti con l'idea che se qualcuno, se l'autorità parla, se papà parla è perché c'è qualcosa che non va. Padre, invece benedite i vostri figli, perché le nostre parole formano la loro vita, e se non saranno le nostre parole, saranno altre parole, perché comunque abbiamo fame di qualcuno che ci parli e che ci aiuti a crescere, che ci aiuti a svilupparci. Padre, benedite i vostri figli, è una cosa importantissima. E quindi chi è cresciuto con questa cultura, con questa idea, parla soltanto quando c'è qualcosa che non va, vi stavo dicendo. Però noi tutti come genitori che ha avuto bambini, lo sai che i tuoi figli sono continuamente alla ricerca, soprattutto quando sono piccoli, della tua approvazione. Vai, li porti al giardino, e giardinetti, al parco, e loro continuano a chiamarti. Papà, mi guardi? Papà, guardi? Papà, ti piace questo? È uguale a quello che hai fatto prima, 100.000 volte. Comunque è bellissimo, straordinario. Papà, guarda quello che sto facendo. Papà, perché? Non tanto la mamma. La mamma, vabbè, se non c'è il papà, c'è la mamma. Ma di solito è proprio l'attenzione, il desiderio di sapere che per papà sei... che papà è orgoglioso di te. Benedire significa esprimere il proprio orgoglio nei confronti dei nostri figli. E papà esprime tutto questo ed è un'immagine, un riflesso di papà, del Signore. Il Signore benedice, ci ha benedetto fin da Genesi perché è orgoglioso di noi, è orgoglioso di te, proprio in maniera specifica, di te. Vede qualcosa che neanche io vedo, no, vede qualcosa di speciale perché ti ha creato, sa come sei chi sei, e esprime questo orgoglio attraverso la sua parola. Padri, benedite i vostri figli, Dio ci ha benedetto in questo modo. Perché i padri spesso non parlano? Perché siamo cresciuti a volte con l'idea che il silenzio è un'idea rappresenta la nostra forza, l'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo che non parla mai perché è autosufficiente a se stesso. Non... Ma anche questo è un pensiero un po' sbagliato, perché alla fine guardate che ci vuole più coraggio a parlare e a benedire nei momenti difficili, nei momenti in cui tutto sembra parlare il contrario. La vera autorità, la vera forza sta invece nell'alzarsi e continuare ad amare, a benedire, a esprimere quello che vediamo a livello spirituale, anche se tutto il resto parla al contrario. Ci vuole più coraggio e più forza a essere uomini di questo genere, che hanno la capacità di alzarsi e parlare in maniera positiva, sempre e comunque, e di trovare sempre questo aspetto meraviglioso. L'anno scorso non abbiamo fatto il summer camp per le vicende note, lo sapete, e abbiamo fatto un summer camp online. Abbiamo invitato diverse persone, trasmettevamo tutto online, e abbiamo chiamato persone adulte che hanno raccontato la loro esperienza, diverse cose che stanno facendo, però per presentarle abbiamo così fatto questa scelta di chiedere loro di portarci una pagina di un loro diario, se lo avevano mai scritto da adolescenti, oppure di immaginare di essere adolescenti e scrivere una pagina di diario che fosse la più rappresentativa per loro quando erano adolescenti. Queste persone mi hanno ovviamente mandato prima queste pagine per capire l'ordine, insomma, come organizzare il tutto, e quindi ho avuto questo privilegio di leggere queste pagine di diario. La maggior parte di loro erano persone adulte ormai, ma cresciute in famiglia cristiane. Altri invece hanno accettato il Signore da adulti. Però una delle cose che mi ha colpito di più maggiormente è che il filo conduttore di quasi tutte queste storie era il fatto che da adolescenti non si sentivano compresi dai propri genitori, non si sentivano apprezzati dai propri genitori. Voglio leggervi una di queste, proprio qualche riga di questo, del diario di questa persona. E lui ha scritto: caro diario, stamattina non ho proprio voglia di andare in chiesa. No, scusatemi, andare a scuola, più o meno. Lo dice dopo. Dopo dirà ai genitori che non vuole andare in chiesa. Però ascoltate bene, dice: ho sempre il presentimento, sto leggendo solo alcune frasi rappresentative, ho sempre il presentimento che a loro, rivolto ai genitori, non importi molto di me. Mi sento così invisibile ai loro occhi. Cerco in tutti i modi di dire: ci sono anch'io, vorrei che mi parlaste, vorrei che vi interessaste a me, vorrei contare qualcosa per voi, vorrei qualche volta sentire un apprezzamento, ma sembra che non ci riesca proprio a farmi notare. Loro sono così presi dal lavoro, da mio fratello, dalla mia piccola sorellina di solo 2 anni, per non parlare poi degli impegni in chiesa. Sembra che per me non abbiano mai tempo. Poi parla di altre cose, alla fine dice: mio padre parla poco, ma quando lo fa le sue parole severe mi penetrano dentro e mi fanno tanto male e la mia autostima si abbassa moltissimo. Ora, voglio aggiungere una piccola cosa. Sta parlando una persona, un ragazzo, che è cresciuto in una famiglia cristiana. Probabilmente non era veramente così drammatica la situazione e magari i suoi genitori più volte hanno parlato dal loro cuore e l'hanno incoraggiato. Il problema è che non è... non ti puoi soffermare solo a quello che tu come genitore fai, ma cercare di capire quello che i tuoi figli realmente stanno vivendo in quel momento. Perché alla fine noi come genitori siamo limitati. Siamo comunque nati di nuovo, la giustizia di Dio, ma siamo limitati in qualche modo e sbagliamo in qualche modo. Puoi anche aver scritto un libro, essere genitori, ma qualcosa in quel capitolo ti è sfuggito. Ma poi dall'altra parte c'è anche il fatto che i nostri figli sono incapaci di ricevere pienamente, perché comunque anche loro devono fare la loro esperienza. Cioè, siamo uomini e donne, sbagliamo. E poi c'è questo grande problema che se dici una parola negativa, questo lo dicono gli psicologi, quella parola negativa ha molto più effetto di una parola positiva. Cioè, per riuscire a recuperare devi dirne molte di più, devi esprimere molto di più la benedizione. Perché? Perché in qualche modo l'uomo peccatore costruisce molto su anche una cosa negativa che è successa. E quindi è interessante ascoltare, cercare di riflettere quanto è importante avere persone intorno a noi e chiesa. Non sto parlando solo io padre nei confronti dei miei figli, ma io pastore nei confronti della chiesa, io Fabio amico dei giovani, dei più giovani, essere questa voce profetica, questa voce che sa guardare al di là. Per questo che c'è anche l'idea di chiesa proprio come famiglia, perché dove io come padre non arrivo, grazie a Dio ci sono dei fratelli, delle sorelle nella chiesa che comunque si interessano ai miei figli, che vogliono bene ai miei figli, che hanno parole di benedizione. E io per i figli degli altri. La chiesa è un dono meraviglioso, è qualcosa di straordinario. Ora, quali sono gli effetti di queste parole che noi diciamo ai più giovani? La prima è quella di... La prima non in senso proprio cronologico, diciamo, mi piace partire da qua. Quando Dio si presentava ad Adamo ed Eva, anche dopo il peccato, vi ricordate, in Genesi, capitolo 3, viene detto che Dio nella brezza del giorno, della sera scendeva a incontrare Adamo ed Eva. Sapete, la brezza della sera è un vento che ha a che fare con lo Spirito Santo, però di per sé è un vento che soprattutto la sera o al mattino si crea per il contrasto della temperatura che c'è tra il mare e la terra. E quindi si crea questa brezza. E Dio si presentava ad Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, quando non c'era ancora il peccato, e l'ho fatto anche dopo, semplicemente perché sapeva che Adamo ed Eva avevano bisogno di questo incontro con lui di consolazione. Perché, sapete, quando si esce di casa c'è una temperatura diversa. tra casa e il mondo, esattamente come c'è una temperatura diversa tra la terra e il mare. E quando torni a casa hai bisogno, comunque e in ogni caso, di qualcuno che ti dia qualche parola di consolazione, che ti faccia sentire accolto, che ti faccia sentire un principe, una principessa, che ti faccia sentire che qui posso anche sfogarmi, ma sono amato e accolto comunque in ogni caso. Perché quando usciamo di casa, i nostri figli affrontano le scuole, affrontano i compagni, affrontano tante situazioni, e noi dovremmo avere questa abilità di creare in casa il nostro Eden, il nostro luogo dove sai che al di là di quello che succede nel mondo, questo è un porto sicuro, questo è un luogo dove sono sempre accolto. E non è stato facile negli ultimi 2 anni riuscire a mantenere questa atmosfera anche dentro a casa, perché le notizie che arrivavano da fuori, tutta questa difficoltà, il fatto che eravamo chiusi, tante cose diverse. Però è proprio lì che padri e madri, chi è in responsabilità, deve avere questa capacità, questa forza, questa meta, questo obiettivo di ricreare un luogo di consolazione. E poi c'è anche incoraggiamento. Sapete perché Abramo a un certo punto è partito e ha lasciato Ur ed è intrapreso quel viaggio? Perché Dio lo ha benedetto. I nostri figli hanno bisogno di benedizione, di sentirsi incoraggiati dalle nostre parole, di ascoltare parole di vita da noi, dalla nostra bocca, a casa, in chiesa, affinché loro possano intraprendere il viaggio a cui Dio li sta chiamando, a intraprendere l'avventura della vita. È dentro casa ed è dentro chiesa che i nostri figli e anche noi alla fin fine riceviamo quella forza, quelle vitamine spirituali, quella capacità, quel coraggio di lasciare il porto e intraprendere un viaggio. Ebrei ci dice: senza neanche sapere dove stai andando, ma io so che ho questa forza, questa energia dentro di me, perché quella parola è diventata la mia parola, quella parola mi ha definito, quella parola mi ha formato, quella parola mi ha equipaggiato, quella parola mi ha reso una persona che, wow, vado e non ho paura di nulla, sono in grado di affrontare ogni situazione. Quella parola che noi diciamo ha anche un'altra funzione, che è quella di prevenire, di prevenzione, perché mentre noi parliamo ai nostri figli, attraverso la nostra lode, la nostra approvazione, attraverso l'espressione del nostro amore, noi facciamo in modo che loro siano soddisfatti e trovano soddisfazione in quelle parole, perché guardate che se non saremo noi a darle, troveranno e cercheranno quelle parole da altre parti, ma non è detto che saranno le parole giuste. Preveniamo la ricerca di conferme, di approvazione da persone, da situazioni che in realtà non li aiuteranno, e quindi quell'approvazione gliela offriamo noi. E poi c'è un altro aspetto molto molto importante, che è uno di quelli che mi piace di più. Attraverso le nostre parole nei confronti dei nostri figli, noi stabiliamo i loro standard. Siamo noi a stabilire i loro standard. In Geremia, capitolo 31, versetto 9, c'è scritto: «Li farò camminare lungo corsi d'acqua per una via diritta sulla quale non inciamperanno, perché sono un padre per Israele, ed Efraim è il mio primogenito». Come noi trattiamo i nostri figli è il modo in cui loro si abituano, è il modo in cui loro pongono il loro standard per essere trattati nel mondo. Sapete, quando Dio ha creato, nel secondo racconto, in Genesi capitolo 2, quando Dio ha creato Eva, Adamo dormiva, vi ricordate? Dio ha fatto dormire Adamo. Ha fatto in modo che Eva incontrasse prima di tutto Dio. Il primo incontro che Eva ha avuto non è stato con Adamo da quel punto di vista, ma si è identificata a... ha avuto questa relazione prima di tutto con Dio. Cosa vuol dire questo? Dio voleva che l'identità di Eva fosse, che Eva trovasse la propria identità prima di tutto in Dio Padre. Soprattutto le nostre figlie imparano i propri standard in famiglia, per come io come genitore tratto le mie figlie e per come io soprattutto tratto mia moglie, loro in maniera inconsapevole, inconscia, ma dentro di sé, dentro di loro, capiscono che quello è lo standard e non permetterò al mondo di trattarmi in maniera con standard più bassi, perché io ho capito in casa il mio valore. Padri, parlate alle vostre figlie, abbracciatele, fatele sentire quanto sono importanti, quanto sono preziose, quanto sono belle, quanto sono intelligenti. Fate in modo che loro possano sviluppare dentro di sé una consapevolezza che possono fare qualunque cosa, possono essere imprenditrici, possono essere professioniste, possono affrontare qualunque cosa, affinché loro non accetteranno mai che nessun uomo al di fuori della casa, al di fuori di casa, le possa trattare in maniera più bassa, in maniera meno dignitosa. È in casa che imparano gli standard. Attraverso cosa? Attraverso le parole che noi pronunciamo loro. Padri, benedite i vostri figli e benedite le vostre figlie. E tutto questo vale ovviamente anche nel positivo. Siamo noi che dettiamo gli standard ai quali i nostri figli punteranno quando escono di casa e affrontano questo mondo. Imparate che le vostre parole, la benedizione da parte di Dio non era una cosa come dire Adamo ed Eva, vi benedico, ce la farete, arriverete a fine mese in qualche modo, dai ce la farete, non vi preoccupate. La benedizione era una cosa veramente potente. In Genesi capitolo 27, versetto 28, un padre benedice il proprio figlio e gli dice così: Dio ti dia la rugiada dei cieli e la fertilità della terra e abbondanza di frumento e di vino. Ti servano i popoli e le nazioni si inchinino davanti a te. Wow! Questo è un bello standard, è un livello molto alto. Quali parole stiamo trasmettendo ai nostri figli? Quale futuro gli stiamo aiutando a immaginare di se stessi? Qui viene detto: Dio ti dia la rugiada dei cieli, la fertilità della terra e abbondanza di frumento e di vino. Ti servano i popoli e le nazioni si inchinino davanti a te. Ma io cerco di tenerlo basso, umile, fare in modo che non si monti la testa. Padri, c'è già il mondo che gli farà capire tutte queste cose. Noi non siamo chiamati a tenerli umili, noi siamo chiamati a equipaggiarli per ricevere e vivere pienamente la benedizione di Dio e conquistare questo mondo e vivere una vita significativa, forte, potente. E qui c'è un altro grande problema. Vabbè, ma Dio aveva a che fare con Adamo ed Eva, i miei figli non sono così, ci sono dei figli. Se vedessi in loro qualcosa di speciale, vedete, ma i miei figli, devi capire che tu non hai capito ancora chi hai a casa. Nell'Antico Testamento c'è una storia meravigliosa di un profeta che va a casa di Isai e deve ungere il nuovo profeta, e questo padre chiama i suoi figli e Isaia inizia col primo, dice: no, ma non è questo, il secondo non è questo, il terzo non è questo. Sapete bene la storia. Alla fine dice: ma non hai altri figli? Sì, ce n'è uno, ma è con le pecore, sta. E vallo a chiamare, perché noi non ci metteremo a tavola finché lui non verrà qua. Isaia non aveva capito chi aveva a casa. Non aveva capito che Davide, quel piccolo ragazzino, era il futuro re di Israele. Era un cantante meraviglioso, un compositore, un creatore di strumenti musicali. Avrebbe scritto tantissimi salmi, avrebbe organizzato in maniera straordinaria il regno. Era un leader. Non aveva capito chi aveva in casa. Tu hai capito chi era in casa? Hai capito chi ha in casa o lo stai inscatolando così tanto che non ti viene da dire nulla? Nel 2019 c'è stato un attentato in Sri Lanka E un padre ha perso il suo figlio, molto molto giovane. E a me ha colpito quest'uomo perché ha detto delle parole straordinarie. E il dolore del padre di Kieran Shafrit, sicuramente lo sto pronunciando male, ucciso nell'attentato in Sri Lanka. Lui dice, lui ha detto queste parole: i terroristi non sanno che hanno ucciso. Mio figlio, stiamo parlando di un ragazzino di 11 anni, lui dice, mio figlio era una mente brillante, avrebbe sconfitto l'Alzheimer perché stava studiando per questo. Quest'uomo, sta parlando di un ragazzo di 11 anni, un ragazzino di 11 anni, ma questo padre ha detto, io ho in casa colui che sconfiggerà Alzheimer. Tu in casa potresti avere persona che risolverà problemi per l'umanità. Tu potresti avere il prossimo pastore della Chiesa che porterà la Chiesa a livelli straordinari, potresti avere un profeta, potresti avere un professionista che sarà di benedizione per tantissime persone, potresti avere una persona che porterà il mondo e l'umanità a un passo straordinario, a un passaggio e una benedizione per l'Italia, forse troverai il modo per sistemare le cose in Italia. So che è difficile, non tanto per tuo figlio, ma per l'Italia. Ma hai capito chi ha in casa? Perché noi a volte non lo capiamo. È come alcuni genitori che vanno a parlare con i professori, loro hanno un'idea di loro figlio, ma non sanno in realtà che cosa succede quando il loro figlio va a scuola, e a volte il professore inizia a parlare bene di loro figlio e i genitori si guardano, ma lei ha capito chi è mio figlio? Faccio vedere la foto, è questo qua, forse sta confondendo con qualcun altro. A volte abbiamo bisogno di qualcun altro dall'esterno che ci aiuti a capire chi abbiamo in casa. Padri, benedite i vostri figli. Madri, benedite i vostri figli. Questo messaggio di incoraggiamento anche per le madri che forse stanno crescendo, state crescendo i vostri figli da soli per diversi motivi. Questo messaggio parla ai padri, ma parla all'autorità in generale. Allora sei tu che sei chiamata a benedire i tuoi figli, ma guarda che in chiesa troverai uomini che ti aiuteranno e che benediranno la vita dei tuoi figli con le loro parole. Se non altro perché ho predicato io oggi, avranno capito qualcosa, ma è così. Padri, benedite i vostri figli. E voglio dirvi anche questo per concludere, che noi potremo benedire i nostri figli nel momento in cui avremo noi per primi accettato questa parola di benedizione da parte di Dio. Hai capito che Dio ti ha benedetto? Hai capito che Dio è orgoglioso di te? Che è bellissima la Puglia, noi siamo andati in giro in questi giorni, abbiamo visto posti meravigliosi, molte volte immaginiamo, no, che l'uomo, che Dio abbia creato tutto quello che c'è intorno a noi per benedire la nostra vita, per il nostro piacere, per mostrare la sua gloria. Però, sapete, io sono convinto di questo, che chi è creato immagine e somiglianza di Dio siamo noi. Quando noi andiamo in giro e rimaniamo a bocca aperta per la creazione, però non ci rendiamo conto che la creazione guarda noi ed è la creazione che rimane a bocca aperta. Perché noi siamo creati immagine e somiglianza di Dio, la benedizione di Dio è su di noi. Nelle cronache di Narnia viene detta questa parola bellissima, questa descrizione. Tutto il creato che si gira a guardare, guarda un figlio di Adamo, un figlio di Adamo. Se tu ti avvicinassi alla porta dove nella stanza della Trinità, iniziassi a sentire con le tue orecchie quello che il Padre sta dicendo al Figlio e quello che Gesù sta dicendo al Padre, e inizi a sentire, stanno parlando veramente di te. Se tu ascoltassi quelle parole non ti riconosceresti. Perché? Perché siamo così abituati a vederci piccoli. Ma Gesù sta parlando al Padre e sta benedicendo la tua vita, e sta dicendo che sei un figlio prezioso, che sei una figlia preziosa, che c'è del potenziale straordinario in te, che è proprio di te che abbiamo bisogno, che sei davvero nella generazione giusta, nel posto giusto, e che sì, possiamo usarci di te perché sei prezioso, perché sei importante. Padri, benedite i vostri figli, perché così i nostri figli imparano che quella è la parola che viene dal papà, quella è la parola che viene da parte di Dio. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi. Alleluia. Un ultimo versetto, Isaia 64, versetto 8, dice così: tuttavia, o Eterno, tu sei nostro Padre. Interessante che dice questa parola: tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi. Noi tutti siamo opera delle tue mani. Vedete, quando si parla di Dio come Padre, si parla di colui che dà forma alla nostra vita attraverso le sue parole, attraverso la sua azione su di noi. E oggi il Padre vuole dare forma ancora oggi alla tua vita. Ricevi questa parola, ricevi la sua parola, questa parola di amore, di approvazione, questa parola di orgoglio. Sì, sta parlando proprio di te. Sta parlando proprio di te. Gli occhi dello Spirito Santo sono su di te. E in Genesi Dio ha detto: tutto molto buono, bellissimo, perfetto. È ciò che volevo. Non ne volevo un altro, volevo proprio te. Non volevo una copia di qualcun altro, non volevo che fosse come il figlio di qualcun altro, non volevo che volevo proprio te, così come sei. Certo, il peccato ha prodotto le sue cose, affronteremo tutto questo, ma tu, proprio tu nell'intimo, proprio tu sei meraviglioso, tu sei mio figlio, dice il Signore. Ricevi questa parola, è proprio così. Sei un potenziale straordinario, sei immagine e somiglianza di Dio e lo Spirito di Dio fluisce attraverso di te e attraverso di te questo mondo può essere cambiato e benedetto, attraverso di te Dio può mostrare la sua gloria, attraverso di te la presenza di Dio si manifesta e quando cammini tu porti luce perché tu insieme ai tuoi fratelli e alle tue sorelle noi siamo la luce di questo mondo e Dio ha chiamato te, ha scelto proprio te. Ti ha ideato, ti ha creato, ti ha realizzato. Alleluia. E Dio è felice che tu ci sei. In questo mondo, in questa terra, c'è posto anche per te. Dio ha creato questo mondo anche per te, perché sapeva che ci saresti stato tu in questo tempo. Alleluia. Accogli questa parola da parte di Dio, perché è solo così che potrai poi esprimerla a coloro che sono intorno a te. E farla vivere ai tuoi figli e alle tue figlie. Gloria a Dio. Amen, Chiesa. Alziamo un attimo le nostre mani, permettiamo allo Spirito Santo di parlare, di parlarci, di confermare questa parola. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Padre. Alleluia. Sapete perché noi usiamo questa parola Amen? La parola Amen significa proprio, come dice anche in ebrei, è così, così era, così è, così sarà. Significa proprio accordarsi a quello che Dio dice. Dio ha detto il suo Amen e anche noi diciamo il nostro Amen. Cioè riceviamo questa parola, riceviamo la parola di Dio, riceviamo la sua benedizione. E io vi chiedo con tutto il cuore questa mattina proprio di esprimere questo amen davanti al Signore e riconoscere che siamo il suo popolo, che noi siamo veramente il gregge che lui pasce, che noi siamo i suoi figli, che io personalmente sono suo figlio. Alleluia, creato a sua immagine e sua somiglianza, e che quella benedizione che Dio ha espresso fin da Genesi, alleluia, è sulla mia vita. Dio sta parlando di me, alleluia, e la sua parola ciba la mia anima, mi dà vita, mi dà forza, e la sua parola mi dà forza per benedire gli altri, perché Abramo è stato benedetto ed è diventato una benedizione. Alleluia. Mentre questa parola viene sulla tua vita, questa parola attraversa la tua vita e raggiunge altri. Io sono benedetto. Dio ha detto che, alleluia, che sono veramente prezioso, che sono realizzato secondo i suoi piani. E non c'è nulla, nulla, non c'è nessuna condanna in coloro che sono in Cristo Gesù. Non c'è nessuna mancanza che mi possa impedire di essere libero e di vivere la pienezza dello Spirito. Alleluia. Se qualcosa mi ha bloccato fino ad oggi, alleluia, da oggi non mi bloccherà più. E se qualcosa mi ha frenato fino ad oggi, oh, io rimango in ascolto della sua parola. Oh Eterno, parlami, perché se tu non parli io muoio, ma se tu parli io vivo. Io vivo, mi alzo, cammino, vinco, regno, alleluia, mi diverto e raggiungo tutto ciò che tu hai posto davanti a me e rendo questo luogo, questa società, questa città, la mia famiglia prima di tutto, un luogo prezioso, un luogo meraviglioso, un luogo dove si respira l'aria che si respira in Eden, perché è ciò a cui io sono stato chiamato. Alleluia, alleluia Chiesa. Genitori, avete un impegno molto importante, un compito, un'aspirina spirituale, una ricetta medica. In questa settimana, ogni giorno, trovate un modo, un motivo, una ragione per andare dai vostri figli e esprimere la vostra benedizione. Anche se vi guarderanno e diranno, lo fai perché l'ha detto il pastore Fabio, tu dici, lo so, ma lo devo fare, mi voglio impegnare, mi voglio abituare, abituati anche tu perché hai bisogno di questo cibo e fa del bene anche a me esprimere parole belle. Amen. Alleluia, possiamo lodare il Signore insieme. Alleluia.